yeah. Che mi ponga in capo. Avanti, chi è? Chi è sul canale 10? Avanti. Tu sei Antu. Ci sono io, Massimilia. Antu. E dimmi. Bene, li ascolti. Ciao, buonasera. Buonasera, buonasera anche a te. Benissimo, Massimilia. Ok, hai migliorato. Qua sei Santiago 9. Migliorato. Sei 9. Capa, già va bene. Va bene, sì. L'hai sollevata o hai lasciato tutto com'era? Sollevata. Alzata l'hai, sì. Sì, di un po', ma non è che vi sia tutta questa grande differenza alla fin fine. Eh no, già c'è la differenza. Prima eri 8, adesso sei 9. Qua da me, poi dagli altri non te lo so dire. Così come sono con pochi watt? Così sei Santiago 6. C'ho pochissimi watt, eh. Io te lo sto dicendo, qua mi segna 6, fai da 6 a 9. Capa, così già va meglio, dai. Così va bene, sì, dai, la radio anche un pochino più forte. Andiamo, andiamo, grazie. Cosa vai? Andiamo, sì, a me. Andiamo, chiatta, bobo. Beh, Massimilia, a me sono venuto qua in camera a prendere la lima per la 25. Bacio, un bacio. Vai. Ciao Luca, a posto, sì. Tutto a posto e niente l'ordine di zia Guido. Andavè. Va bene, amici, anche il bambolino. Sì, capa, Luca. Sono entrato, c'è di da Massimiliano. Sono entrato. Beh, c'è anche Claudio in ascolto, forse se c'è ancora, dai. Arrivo subito. Per un telefono dove c'è, sì. Vai, fai lui, non c'è problema. Avanti, Antu. Capa, ma Luca ti arriva più forte di me? No, non mi arriva più forte di te. Ah, capa, dai. Ti stavo dicendo, Massimilia. Già va bene adesso, dai. Adesso non so con l'altro apparecchio come sono, perché c'è un po' più di watt. Però già andava. Ah, va. Sì, a voglia. Aspetta che accendo anche l'altra, così ti do un controllo a vedere sull'S9, vediamo un po' se è uguale. S9 vai, è il mio desiderio di prendermelo con l'apparecchio, cazzo. Ehi, anche qua sei 9, Antu. Guarda, sì, adesso, io vi la giovani, Antu, c'avevo più di 5 anni. Cappa. Il mio desiderio era di avercelo. Ma già c'ho anche un'altra che è bella quanto è quello, eh. Anzi, ti dico che è ancora più completo dell'S9. Sì, ma siccome è una radio che mi è sempre piaciuta, mi sarebbe piaciuto avercela. Ma mai dire mai. Ma infatti, tanto qua ce ne sono occasioni, sì. Sì, comunque anche lì sei 9. Questo diciamo che sto usando è anche un'antenna un metro più bassa della Mantova, quindi a voglia, vai benissimo. Capa, non stai usando la Mantova? No, questa è un Assirio 2008. Io a voglia, va bene. E invece l'altra che c'ho sulla S9 è la Mantova. Tutte e due segnano 9, così è. Eia, vabbè, due radio completamente diverse. Lo so. Uno già ci intende cosa è. È positivo. Adesso voglio fare una prova con l'Intec. Adesso attacco l'Intec un attimino. Vai, tranquillo. Vai, Luca, via. E là. Vai, no, è muto. Con questo sei un po' più basso, eh. Vabbè, quanto cambia? 6 a 7. Vabbè, già va bene, dai. 6, 7 qua e 8 sulla S9. Capa, ma la radio è molto più potente. Ma diciamo che anche quella non andava bene, dai. Sì, ma questa va bene. Capa, com'è? Vabbè, più ce n'erano, ma già va bene lo stesso, dai. Sì, sì, a tu, va bene, a Puglia. Cappa. Quindi dici di ritornare con l'altra. È uguale, a tu, va bene anche questa, lascia questa. Vanno bene sia una che l'altra, vanno bene tutte e due. No, ma chi dice, tante razze, siamo al studemo. Un guida alimentatore cinese. Ma tu me lo sai che va bene, cavolo, stavo provando, riprovando, e va benissimo. Sì, Antu, hai visto, poca spesa, tanta resa, là. Non è bellissimo da vedere, però cosa di una fuzza. Importante che faccia il suo lavoro. Certo che fa il suo lavoro. E almeno va più bene, capito? Può attaccare quello che vuoi e te lo regge, là. Capo, no, dico che sono soddisfatto. Beh, se ho alzato l'antenna, non mi fa più quell'alternata brutta. Ehi, ascolta, di quanto l'hai alzata? Un metro solo? Non posso di più, se non ho fatto danno. Cioè, in che senso fa danno? È che non ho le staffe, non ho le cose adatte, cioè, è attaccata nella staffa del condizionatore. Ecco, capito. Fortissima me quella lì. Deve reggere un condizionatore, me. L'ho bullonata tutta lì, tutta una cosa particolare, di fatto, per no. Poi più in là voglio mettermela proprio più su. Voglio cambiare il capo, mettere un'antenna più grande, cioè migliore. Sì, ma non ti credo, guarda che quella lì va molto bene come antenna, sei una buona zona, hai capito? Sì, insomma, buona zona no, anche ciò che imbarco. Sì, a tu, la per città va bene, ascolti, a tutti ascolti, sì. Sì, sì. E allora cosa di una frutta? Cappa, volevo qualcosa di meglio, volevo. Però Paravà rimane così anche di nannonnaccio. E infatti, Paravà e Paravè, andavè. Io va pure i picciti mi devo fare, faccio problemi all'occhio. E allora fatti prima gli occhiali che sono più importanti dell'antenna. Chiaro un grido via. E più là per un po' salire, mettere, come si dice, mettere le staffe, mettere e tutte cose. Beh, sinceramente parlando, Anto, se va bene con quella, avrei lasciato tutto così, tanto, tagliate in me, non è fare i buchi. Lo so. Cappa brioche, va. Luca, ci sei? Andiamo, Luca non c'è. Va bene. Ma pure tu mi arrivi bene, ha aumentato. Sì, Anto, io sto usando una quindicina di watt, non di più. Sì, io meno di te. La voglia, va bene. È anche bassa a valle, molto giù. Vabbè, comunque mi arrivi meglio nell'altra postazione che avevi nell'altro QTH, no? Beh, tutto diverso qua, già non credo, già. Cappa già. Là era una cosa, babbo era, sennò io già me l'avevo bussato a stessi. Era tardi, mi avrei fatto un lavoro come si deve, me l'avrei messa. Prima già ti sei attrezzato bene, va bene tu, ti ripeto, per la gente che c'è ne per i maiali. A Puglia. Ma ti ho detto, là io ce l'avrei avuto a tempo, se l'ho fatto solo io, perché me l'avrei piazzata lo stesso. E chi vi dice, forse mi si pone l'antenna mamma, gli era la più dolce. Ehi, a Puglia, anche lì è una buona zona. Ma tu mi allontano un attimo, guarda c'è qualcuno forse volontario. Ci sentiamo dopo al limite, ok? Sì, ok, avanti. Qualcuno che vuole entrare? Ehi, Anton, sei rientrato, ci sei. Sì, ya. Allora, sono andato a bere un goccio d'acqua che Daniele ha fatto le papassie. Mi stavo sbravando qualche giorno, allora, buono comunque. Matrimonio dopo ieri? Ehi, abbastanza. Se avessi già avuto ero parato. Vabbè, l'abbiamo fatto così, là, non sapevamo cosa fare. Un paio di farina, là. Capa, ma volevo scendere un pochettino a Cozzo, a Platamo, a Matteo Rinunciato. esatto, ho detto non si sa mai cazzo per andare a rompermi le balle. Oggi anzi diciamo che era anche una bella giornata lì, tu potevi scendere, c'era un bel mare. Sì, ma volevo portarmi un tavolino, la cucinetta, la graviglia, ma aveva fatto un po' di esercizione, aveva mangiato, ma ci ho rinunciato, sa mai che bene in vizio, rompermi le balle. Vai andare a mare a fare un gofite. Vabbè, ma già lo puoi fare. Capito, basta che alle 10 sia a casa, c'è la sola, aspetta che chiudo la porta di Gagliare, sta facendo casino. Bella. Poi più grande la cosa, a Fortnite. E non sai che più Fortnite? Con la Play 4, con la PlayStation 4, sono una decina di amici, tutto in cuffia, con microfono. Cerco personale per uscire dopo le 10, chi è che è disponibile? Aiuto! Ma io non c'è problema, ciao ti, io ho l'autocertificazione, perché lavoro di notte e quindi posso uscire. Oh no, per punizione punitiva. Ma io, di là per me. Di là è uscire per le cose nostre, buonasera comunque. Buonasera anche a te. Se mi sei di là, che andava già. Questo si dice di atti. Beh, 400 euro di multa, ragazzi, come Caribaga, se sta acciappane. Se non sta acciappane andava, è il rischio Caribaga. Se punizione punitiva è per picchiare la gente che non ci può uscire, scusa, eh. Ah, vaga, no, quello no, non mi piace, no. No, che si arrangino. Per carità. Andiamo a Similia, finito avete. No, ancora notti, ancora niente, ancora ci abbiamo forse domani notte o dopo domani notte ancora. Bene, bene, poi? Poi ci sarà da fare ancora qualche altra notte per fare lo scavo treno della ferrovia e poi ci sarà da fare qualche giorno di giorno per sistemare tutto il materiale, là. Bene, bene. E poi se parte un'altra trincea da fare facciamo l'altra, se no me ne ritorno alla Sassa di Ulbia. Bene, noi Giulia, però ci sarà da fare sempre qualcosa, se no è un casotto. Sono venne travagliano. Ma ti dirò invece che si sta muovendo qualcosa, quindi è una cosa positiva, dai. Adesso ho rifatto, cazzo non c'era, se l'avete quando l'ho fatto, ho rifatto la terna, la 928C, come che è uscita la Caterpillar? Ah, l'avete tutta rifatta a nuovo? Sabbiata però me, sabbiata, rifatta, i piedi, la lamiera che era marcia sostituita, rifatta a nuovo. Guarda, per sembrare una macchina nuova ci vogliono solo le gomme davanti. Ma cosa fai questi lavori fai? Uso i giocattoli. Ma fa movimento a terra? Sì, ormai da lontano 89. Ah, ho capito, non lo sapevo. Non lo sapevo. Siamo come ti chiedo che ha caputato la macchina dei carabinieri. E quello si è messo il vino in fresco, però è un mito, cazzo, è rimasto nel ricordo, vedi? Ha fatto una cosa che, insomma, ci voleva coraggio per farlo e l'ha fatto. No, quello di Corso, quello di Cagliari, dove è capolo di quel paese di Cagliari. Lui è cuoco, ma è fuori di capo, faccio questi video che ti scompaccio dalle risate. Cioè una volta la stava facendo carne arrosto e si è passato così, ma è proprio scellerato di gabbo. Ma chi è Antu? Quello che sì, forse l'ho visto un video di questo, ha bevuto anche il vino rosso e diceva Beh, non è alla doc, no. L'altro, quello di Cagliari, dice che è un bel macco di cadenza, quello che ci mette a fare la carne arrosto, a balla questa carne arrosto là, dopo si gira, rimane l'usare e fa cazzo, sono troppo il mio, faccio, non è sano, no. Sì, sì, già l'ho visto, l'ho visto. Ma quello ricciolino sta dicendo, tu? Sì, c'è un macco di catena, Sì, ma che di catena già finisce un bel. Madito si chiama. Yeah. Alessio Madito. Facciamo anche documentari, ha fatto qualche documentario in televisione. Sembra serio, sembra. Spiega la guardo ti. Che c'è anche su YouTube ci sono, mamma mia. Ma sono a due voci me. Sì, ci siamo andati a fare, adesso dobbiamo fare l'altro 320, cioè, però forse lo sospendiamo perché c'è un po' di roba da fare in giro, quindi. E l'altra che cos'è? Una Venieri? Aspetta, quella che c'è, sì, però vabbè, diciamo che è quasi della stessa età, forse qualche mese più vecchiotta. Già si vuole un avvenire, ma lontano si vede. Comunque ci sta bene, cavolo. Noi adesso sono da mettere ancora gli ultimi adesivi, diciamo, forse per iniziarla bene all'interno, ma se vuole fare subito non conviene. Comunque. Ma questa l'avete fatta così perché la deve vendere o se la deve tenere? No, questa è perché lo fanno proprio lì alla tua botanica e molto sicuramente la portiamo lì adesso. Ecco, ho capito. Abbiamo fatto anche, vabbè, ha un 318 vecchiato stesso, però l'abbiamo rifatto a nuovo, abbiamo addrizzato alcuni sportelli, insomma. È una macchina che non so se tu hai conosciuto il giovane Traida. Io a voi l'ho conosciuto. Io sono venuto col figlio. Ma lui c'è ancora in movimento o no? No, allora diciamo che lui mi ha chiamato, allora ci conosciamo da bambini, ok? Ed è lo stesso, quasi mezzo parente, è lo stesso figlioccio di mio padrino. Mi ha chiamato per toglierlo un po' da mezzo ai, non dico guai, ma quasi, guarda per oggi, perché sennò stavo facendo liscio, quindi gli ho dato una mano, da lì mi ha chiesto se volevo collaborare con lui, capito? Vabbè, oggi, se stava nulla con voi. No, ma io sto non bene di più. E allora va bene, ha voglia. Va benissimo, vai al tuo, riprendi. E scappa. Cosa ti volevo dire? Ma oggi un bel l'ufficio dello scorso, vai in ora mala. Una ora come è messa questa alternativa? Già ne ha comunque, già si vede. Non ho capito, non si è. Dico, una ora è messa bene, no? Già ne ha. Pochissima, poca roba. Non mi ricordo adesso perché ultimamente io avevo... Allora, io lavoravo con Donato, non so se l'hai conosciuto tu. Ma chi? Geometra Donato, che sarebbe il cognato di Geometra Ida. No, non se l'ho sentito dire, oggi. Io lavoravo con lui, però dal 2014 poi non ha chiuso l'attività lui, o perlomeno è andato in pensione, non ha più fatto niente. E quindi, vabbè, mi sono arrangiato un po' da una parte, un po' dall'altra, ciccia. Quindi non so se ha continuato, ma aveva poche di ore, non ho la terra che ha lavorato più che altro in economia, capito? Quindi poca roba. Questo è il modello che c'ha già le marce nel manubrio, però, giusto? Questo no, ha solo avanti e indietro nel manubrio, le marce sono come quelle della macchina al fianco. Ah, è quel modello lì ancora. Ho capito. Ah, un difetto solo, c'è da fare due tracchi dalla benna mordente, ma del resto è perfetta la macchina, va più che bene. No, io ce l'avevo questa qui, l'ho usato un bel po' quando lavoravo con quelli di Campanella, un bisia facevamo il gas. Beh, no, vabbè, la macchina va bene. Sì, a voglia, a me la berna non mi è mai piaciuta, la dai, Ti dirò, ho sempre usato il 320, però c'è stato un periodo che ero forse 2 anni circa, continui con quella terna lì, di fronte all'ortobotanica, quando abbiamo fatto il carcere minorile via San Semplice là. Ho capito. E qualcuno che fa questi lavori. Di sorso, E chi è altro? Aspetta che te lo dico. Si chiama... Il cognome è Figa. Cazzo, non mi ricordo il nome adesso. Guardo nel telefono. Se mi viene in mente. Così ho... vabbè, quindi adesso fra un po' riprendete allora ti. Ma noi stiamo sempre lavorando, se non sono decidono di fermarci, diciamo, è che ne abbiamo approfittato in questo periodo, diciamo, di calma per poter fare e rimettere a posto un po' i mezzi. Bianco con una bassa. Tu, tranquillo, non c'è problema. Sì, no, oggi è fatta bene, è anche inutile lo stesso, noi abbiamo il verniciatore, i meccanici, una volta che entrano i cavalloni di là, che lo mettono a posto, a riverniciarlo tutto a nuovo. Sì, più bella, più presentabile, più tutto, poi anche l'operatore quando gli si dà una macchina così, insomma, è già più bello, Poi, vabbè, diciamo che... L'operatore quando ha la macchina nuova è più bello, non la verniciatura, perché ad esempio se una macchina vecchia e la verniciata nuova è più vecchia, capito? Spiega basso però. Ok, ho capito te. Io c'ho un 36 di, cioè 13.000 ore, poi riverniciato tutta nuova. Sì, capisco, però voglio dire, io le prime cose che infatti ho messo avanti, e poi sembra così, non è solo una vernice, la cosa principale è che sia funzionante, che abbia il comando. Adesso per dire, altrimenti avevo un sacco di gioco nelle manettine e li ho rifatti come dalla fabbrica, li ho smontati, li ho aggiustati, li ho, insomma, non fa gioco e niente, quando sei seduto a proprio una cazzo. Queste cose sono le cose che fanno la differenza della macchina, ecco. Se hai domani la macchina, se non perdi olio, se non... insomma, queste cose qua, se non perdi gasolio, che si spegne quando devi spegnere. Perché c'è stato anche una macchina che dovevi fare la manovra a casa per spegnerla. Lo so già che manovra è. Vabbè, comunque abbiamo fatto prima quelle cose che solitamente si dovrebbero fare per essere in ordine. E poi ho detto, adesso lo puoi verniciare. Ah, quindi adesso lo voglio rifare a nuovo, così? Sì, un altro che ce n'è, che praticamente adesso il nostro padrino ci sta dando i mezzi, capito? Quando ci servono ce li prendiamo e insomma, dobbiamo mettere a posto, poi se ci servono sul lavoro ce l'abbiamo lì a disposizione. Cos'è? Sempre C? Non è l'altro, non è il nuovo. Non è lo è. Non lo so come si chiama, Massimiliano, per dire la verità, non lo ricordo. Comunque, sarà il D, credo che sia il D. Quanti anni ha? Ma avrà 12 anni. E allora sarà un D, dai. Sono modelli migliori quelli comunque. Guarda, io ti dirò che quest'altro, il C, è... forse lo preferisco. È un pochino più basso di coso, il carro più aperto, insomma. Per tante cose, come lavoro è... va bene. Sì, sì, va bene. Noi di quelli non abbiamo più ormai, li ha tutti fatti fuori. Ci è rimasto un D, mi sembra. E poi gli altri sono tutti E, F e poi abbiamo anche qualche G. Vabbè, voi li utilizzate più spesso, fate grandi opere, quindi questa era così, a cavallo nato, come si dice. I migliori come scavatori, secondo voi? Cos'è, Anto, scusa, che non ti ho sentito? Siete sempre parlato di Caterpillar, ma sono i migliori scavatori, ce ne sono altri buoni? Guarda, a mio parere io ho conosciuto solo quella linea lì, quindi ho utilizzato anche l'Itachi, ma l'Itachi, il 235 Itachi è una macchina ormai che è vecchia, quindi non lo metto neanche a paragone col Caterpillar. Tu Massimiliano, Beh, allora io ho usato Hitachi, ho usato Komatsu, ho usato Caterpillar. Allora, ti spiego, è stato un periodo, una fascia, no? Allora, perché adesso la Caterpillar si è messa un po' in ordine questi ultimi anni, perché sono state sempre belle macchine, però erano sempre lente, consumavano molto, invece già i Komatsu erano già superiori, ti parlo 20 anni fa, te l'ho capito, Antu. Adesso, secondo me, secondo mio parere, attenzione, secondo me meglio di Caterpillar non ce n'è, secondo me. Così dicono, dicono, dice questo Komatsu, dice che è buono. Poi vanno anche a zone, capito? Antonio, se tu vai in Italia, no? Per esempio ci sono zone che usano solo Hitachi, ci sono zone che usano solo Kobelco, ci sono zone, cioè varie marche, capito? Però la Caterpillar è, secondo me è mondiale, cosa dici tutti? Sì, sì, spiegami, ha cambiato logo, ha cambiato, cioè, come cazzo si chiamano, non ricordo più, io vi chiedo la zona vostra, sono degli amici che ci lavorano, che prima erano stati acquisiti dalla Caterpillar, diciamo, meccanici CGT, mi pare, una cosa del genere. Poi adesso prima era Caterpillar, poi era Maya, poi è diventata CGT, capito? Poi c'è Giuseppe che è venuto in gamba. Sì, non so se conosci Giovanni Mura, il padre era il capo responsabile di tutto il nord Sardegna della Caterpillar. Io conosco Giovanni, conosco Antonio, Fausto, Dabu e Gavè, come si chiamava, Antonio. Io ho conosciuti, diciamo li ho conosciuti tutti, dai. Li ho conosciuti tutti, io andavo spesso lì a rifornirmi per te, che poi diciamo che Mario Mura, Antonio Mura, Fausto, questa gente qua era molto amica di mio padrino, quindi. E adesso non c'è più, vabbè, c'è rimasto solo Fausto. Antonio c'è il figlio, Giovanni che lavora per la CGT, noi collaboriamo molto con loro, anche con i meccanici, capito? Perché i meccanici ancora oggi vengono a controllare, anche perché ci sono gli ultimi scavatori tipo gli F, i G, che hanno un motore diverso, l'elettronica tutta diversa, capito? Non sono più, per esempio, per farti capire, i G non hanno più i joystick con i tubi, ma sono elettrici, capito? Non hai più i tubi, entro in cabina. Beh, sì, Giovanni, diciamo che ultimamente ci stiamo frequentando perché, vabbè, il figlio fa un ascolto con mio figlio, quindi, ma poi io con Antonio ci conosciamo una vita stesso, il padre parla. Sì, sì, brava persona, bravissima persona. Ma vabbè, Antonio è andato via, il primo che se n'è andato via Antonio, poi ultimamente è andato via Mario, poi se ne va con Fausto. Sì, riconosco, lui fa voglia. Ci è andato buono, cosa va, Giuseppe Vetturi, la conosci? Giuseppe, guarda, io sinceramente li conosco tutti, però non mi ricordo di Giuseppe, non so presente adesso. Cosa faceva lui, cos'era, meccanico stesso? Oppure stava lì in ufficio? No, lui era, diciamo, meccanico, però si dava più a l'elettrauto, là. Capito, però smontava, faceva come gli altri, uguale, non è che adesso si è messo a conto suo insieme a un altro. Ah, beh, beh. Antonio, riprendi, se no ti annoiamo noi. No, no, per carità. No, perché ho visto che ce ne sono di varie marche, ci sono questi scavatori qua. Vabbè, ma come stava dicendo Massimiliano, dipende anche dalla zona in cui vai, capito? Cioè, da dove ti trovi. Da voi sono quasi, ah, perfino queste macchine moderne magari si equivalgono un pochino, dai. Sono qua, magari c'è quella là che è migliore, però come a livello del coso si equivalgono quasi, queste macchine qua. Tu sai che cosa è? Che tu compri un Caterpillar, lo usi 10 anni, 15 anni, come dice Tino, con la terra, adesso l'hanno riverniciato a nuovo, magari ha ripreso altri 3-4 mila euro di valore e riesce a venderlo anche meglio. Un Caterpillar riesce a venderlo, capito? Un Hitachi, un Komatsu, un Liaber, non riesce a darlo, capito, alla cifra che può dare un Caterpillar. Caterpillar tu le mandi lì, dice una lucchina che viene a comprarle, lo intelligiamo, aspetta, mi sfugge. Io ho utilizzato quando ero ragazzino, l'Altesi 50, il 441, non ho niente a che vedere. Anche io l'ho usato, 341, 500, l'Altesi, il Benatti, due Benatti 2000, l'Altesi 80, quando ci aveva tutta la leva davanti, naturalmente. Anche io il 50, 500. Ui, che tempi che... Vabbè, allora adesso sono tutti modernizzati, adesso diciamo che non sono proprio vetture da usare, ma comunque già hanno abbastanza comfort, no? Beh, l'importante è che si facciano utilizzare queste cose poi. Magari prima va via burulare incondizionata. Non vedrà manco aria condizionata, non vedrà nulla, non è a gatto di zio. A tu, prima l'aria condizionata dovevi aprire i finestrini, lo sportello, a volte usavi qualche cavatore senza vetri. Era così, allora sono tutti confortevoli queste cose, ma prima non era così, no? Prima non avevi neanche il sedile ammortizzato, non bastava un po' di maniera e tiravi giù. Io dovevi di guru che andavi finito. Hai ragione, pezzo la vera, un pezzo di gomma più va sotto, quattro volantini laterali. Per carità, per carità. Io ho usato la 55, la 63, poi il rullo era in primis senza sedile, che anche io l'ho usato la 53, ce l'avevo anche la volta. Noi ci abbiamo, come pare, abbiamo 463. Ah, che cosa dobbiamo rimettere a posto? Ne abbiamo, come la 55 no, è stata, diciamo, abbandonata in azienda di D'Angelino Romeo, e la 63 invece da rimettere a posto, ma è una macchina che è valida ancora, va bene. Noi ci abbiamo 63 come pare, poi ci abbiamo due ruspette, il D6 ne abbiamo due, il D10, noi l'8. Va bene anche quello. Cos'è quello a frizione? Non l'ho mai utilizzato, la verità. Ce l'ha Massimiliano adesso, l'ho visto e basta, non l'avevo mai utilizzato. Vai a tu. Tu sempre con la tua carrozzella, Gigi? No, abbiamo lo strada, abbiamo. E quelle moto che avevate prima, sparite so. Ah, è ferma in deposito una. Attivamente. Io già me la metto, sì. Ma sono buttate o che cosa? Una l'abbiamo rottamata, l'altra già c'è. Non la usa. No. Beh, col Fiat Strada è meglio. Beh, la Kaguma, non è come se in carrozzella. Non è... Si chiama esattamente triciclo, si chiama. Triciclo non leggero, dai. E quanto sono quelle di cilindrata? 700, mi pare, no? 600, quanto è? Ah, oh, cazzo, 2,18 è di cilindrata. Tu metti 2,18? Così è. Cos'è? Soltanto sono 600. Chi l'ha detto? Così è tu? Non è così, no. Non hanno quella cilindrata lì. C'è il motocarro, dai, che diciamo il motocarro, 2,18 è quella benzina a miscela, dai, forse quello diesel c'ha quella potenza lì, ma quella lì è 2,18 di pistone. Ma anzi, 2,18 mi sembra sia la sigla, ma il motore credo che sia più grosso, credo. Ma cosa si intende? 2,18 di cilindrata, Non l'ho mai vista così piccolina. In genere io la più piccolina che ho visto di moto a carrozzella da 400 parte, lascia perdere quella cinquantina, ma quelle con patente da 400 di cilindrata, pure questa 2,18 non l'ho mai vista. Tu vai al libretto, sono 2,18, sono quelle moto di cilindrata. C'è scritto 2,18 al libretto. Ah, 400 sono quelli a gasolio, sono quelle lappe, quella a gasolio. Ma chi ci sono cucimi? Che ti camminava però già? Sì, andavo a Puglia. Ma ribaltabile quella volta, no? Può usare per le bombole ribaltabile, no? Non le cucine, quando c'è più, dovete ribaltabile, ribalti tutto. Si può idratare ribaltabili per trasporto gas. C'è ragione, c'è ragione. Avanti, sì. Se che magari in moto e stai camminando, si alza, non te ne accorgi. Non è neanche il primo che gli si alza ribaltabile. Ma forse c'è ragione, per le bombole non è... non puoi usarlo. Usare no. Gli altri sono 700.000, quelle nuove che sono uscite, il quarto, la Fokker, il quadriciclo, là. Sono quadricicli quelle. Quelli già sono, già ce l'hanno quella cilindrata. Ma la Fokker è più grossa, no? Così è. Sì, sì. Avere il brutto dovrebbe essere 400-500, non me lo ricordo bene quanto è il motore. È un quadriciclo. Quindi domani si riprende qui. Ormai devo andare lì all'ortobotanica a vedere cosa c'è da fare, vediamo un po' cosa iniziamo. Abbiamo provato già il 320, il 318, adesso vediamo cosa devono fare. Oggi che è una bellissima giornata comunque. Siamo 8, vi buoni ammegato 15 bomboloni da 25, cioè si scendeva Fantino all'epoca a me. Perché non è che vera i bombolai che ti vendevano le bombole poco, no. C'era un locale a casa che ci prendeva le bombole lì, a Fantino. E anni fa parava me con la motogarrica e andava. E beh, per forza andava, tu. Sono scorrendo un po' le immagini qua nel PC, c'è un po' di gente che è andata al mare, nel mare oggi. C'è un amico che è andata lì a Elsi, che ha portato i figli, sono arrivato in bagno, c'era un mare spaventoso. Oggi era bello andare, avevo cosa da fare, sono andato anche io. Poi io stavo facendo cosa qua. E quindi dopo ho detto adesso ce la facciamo un po' la radio, vediamo un po' se c'è qualcuno. La gente è già bombolino. No, vedete la verità, guarda, no? Mi sono fregato dopo mangiato. Ho pigliato un sonno, la panchetta insomma, arretrata. Mi sono fatto forse un mezzo fa. Tanto bello da te. No, io oggi non ho dormito. Già ho dormito da ieri sera, che mangiavo, e non mi sono arretrato, vado a lavoro di notte, è un casino. Lo so. Vabbè, io notturne, diciamo la verità, non ne ho fatto, non ho mai fatto, non abbiamo mai vissuto, non ho avuto bisogno di farlo, diciamo. Anzi, c'era la possibilità di, quando stavano facendo lo scavo lì del, che cavolo, come si chiama, della Lidl, lì a Pedanetta, che l'ha preso mio padrino, però io sono andato perché ero mezzo in lite, quindi ho detto, no, fatto io. E c'era da lavorare anche la notte lì. Ah, ecco, ho capito, sì, avevano aperto la Lidl con la nuova. Ma ah, voi l'avete fatto quello? No, allora doveva farlo lui, siccome mi sono rifiutato io e da un altro operatore che stesso è suo figliuccio, mi sa che l'avevate a Chiaramonti. Perché ho visto che lui lavorava fino alle 10 di notte, le 11. Sì. Ma no, io non l'ho fatto, ma mi ha chiamato per andare a farlo, però deve arrangiarsi perché ero lì, quindi no, se non mi puoi cercare dopo a comunità. E quindi, a parte che stavo già facendo altri lavori, quindi non potevo mollare un'altra persona per i comuni suoi, e niente. Allora, siccome si è visto senza operatori, ha deciso, credo che abbia deciso di darla a Chiaramonti a farlo. Ecco per me! Esatto. E comunque l'hanno fatto un tempo record, hanno travagliato di brutto. Sì. Era un lavoro dovevamo fare noi, perché quel pezzo di terreno lì era il suo, capito? Quindi lui, cosa ha fatto? Ha venduto il terreno e più doveva fare il lavoro, quindi guadagnarci bensì due volte, no? Vabbè, però non funziona così. Eh, vabbè, boh, io questo non lo so. Non lo so, però ho visto che a volte, siccome mia figlia va a scuola di ballo lì, no? Usciva alle 9 a volte, 9 e mezza, e passavamo anche sul tardi lì, e stavano sempre lavorando. Sì, sì, dove era? Non so se c'è ancora Alessandra Catiglia. No, va da Giuseppe Valeddo. Dove c'è la Nissan, da, di fronte lì. Ah, ho capito. Sì, stavamo sempre lavorando, quello era un lavoro che dovevamo fare noi, ma non sono rifiutato, quindi no. E si è trovato lì spiazzato, senza operatori e niente. Allora ha deciso di darlo un'altra ditta. E quanti siete? Molti venuti? Momentaneamente siamo in 5. Sì, a Vuglia, vabbè. Sì, vabbè, collaboriamo un po' tutti. C'è anche uno che altri. Mi serve, credo che mi serva un manovale, ma non riesce a trovare uno che parla manovale, non dico più di esperienza, ma che sappia almeno come muoversi in cantiere. È difficile. È difficile perché quelli bravi stanno tutti lavorando, Tino. Gli abusai. Sì, infatti. Ho detto, guarda, non sarà facile perché effettivamente è come hai detto tu, però poi c'è gente che sinceramente ti propone di lavorare anche dandogli la paga base come dovresti darla normalmente, no? Nel senso a livelli di legge, questa roba qua. Sì, che prendo così senza fare niente. Vabbè, allora state a casa così. Sì, perché adesso c'è questo reddito di cittadinanza, capito? E queste casse integrazioni, mi pare che bisogna intorno alle 700-800 euro al mese, una cosa così. Allora, senza far nulla, tu dentro vivo, ciccia, vabbè. Sono problemi di chi li vuole, io quello che voglio preferisco lavorare. No, ma oltretutto io lo stesso preferisco lavorare, sì. Però avrei costretto anche a loro a lavorare, perché tanto i denari di Dazinai dovrebbero buggiamo noi, capito? Quindi senza andare a Luba, devi stare in casa, e ti bisogna tu zero, come dentro un mese, no? Mi avrei costretto a lavorare almeno 4 ore al giorno. Lo so, non è una cosa sbagliata. Allora, tempo fa, non so se ti ricordi, tempo fa c'erano i lavori socialmente utili che erano una cosa che come oggi, ecco, ti davano gli aiuti, però tu dovevi impegnarti o entravi in una ditta tipo Multis, adesso non mi ricordo se è ancora in piedi o meno, non so se sta ancora lavorando. La maggior parte era di questa gente qua, di questa gente che ha perso lavoro e che però prendeva questi aiuti e nello stesso tempo però era impegnata, quelle 6 ore e 40 se non sbaglio, quindi è come che stavi lavorando, ecco. Così è una cosa più normale. Sì, ma oltretutto quando hai uno, cioè, va bene, è un aiuto, perché è un aiuto, uno giustamente, però uno che ha voglia di lavorare, si deve anche rimboccare le maniche, non puoi fare una vita abbigliando un reddito di cittadinanza, non c'è un mestiere, non c'è niente, a 40 anni ancora vive la mamma, vuoi dire la mamma, e voi lasciate lì. Bravo, maledetto. Buonasera, l'orario da questa altura qua, buonasera a tutti e due. Mi serviva un controllo come sto facendo per gentilezza. Bravo, due. Buonasera Massimo e buonasera a Catena, non so il nome del tuo relativo. Va bene, orario da questa parte di nuovo e avanti che ho fatto entrare con la buonasera a cambio. Va bene, fino da questa parte, 9.5 Urania, 9.5 radio, insomma, 5 però un po' complicata da parte mia, però, se ti piace così. Ho capito, con il letto ho troppo amplificata, così è. Sì, si è messa appena, fa più che bene. Ma è un gusto quello, quindi gusto a voi non si discute. Riprendiamo a sveglia. Poi a positivo, ciao Francesco, buonasera, Santiago Nova, Radio 5 qua. È così, un casino, vabbè. Va bene, vai, riprendi. Ok, adesso ho abbassato un po' l'amplificazione del microfono, l'ho messa a 4,5, dai, vediamo un po' com'è adesso l'amplificazione, vedi un po' com'è adesso? Io la preferisco, così è migliore secondo me. Hai ragione. Perfetto, la lascio così allora. Questo è il gusti, questo è di gusti, K, ok, vabbè, aspetta che... Sì, adesso va, sei 7,5 quasi 8 con picchi positivi, Bucarti è di 9,95 con picchi positivi. Ah, ok, vabbè, ti ringrazio. Perfetto, tu qua stai arrivando con un segnale di 8 e una radio di 5 è amplificatissima, ok, perfetto. Ottima radio e ottimo segnale anche, ok. Va bene, riprendi a te il cambio massimo. Scusate, mi devo allontanare dalla radio, ma sì, riprendi, dai, ti richiamo. Va bene, sì. Sì, sì, no, va bene. Allora, quando è staccato di Santiago 6 a picchi di quasi 8, ok? Allora, così agganciato aumenta anche un po' la radio. Beh, come al solito, la potenza ti dà anche un po' di, oltre che la potenza, ti dà anche un po' di amplificazione, diciamo, nella modulazione. Ok, perfetto, sì, sì. Pare che allora stia funzionando bene tutto qua. Ok. Va bene, voi parlate però del più o del meno, anch'io sono d'accordo su quel discorso che stavate facendo, quelli che prendono, quello che sto prendendo anch'io ad esempio, ma gli altri preferisco lavorare che prendere questa stupidaggine, ok. Capito, è così, però oramai a me a lavorare, cioè che io ho una certa età oramai e che cavolo più mi prende a me a lavorare, nessuno. Se eri stato più giovane magari sì, ma oramai c'è una certa età, io abbastanza elevata, quindi è impossibile. Però avrei preferito lavorare che diciamo starmene qua a casa a ottiare. Ok, perfetto. Va bene, a te di nuovo il cambio. Sì, Francesco, no, ma penso che comunque proprio il comune adesso obblighi a lavorare, capito? Certo non ti mette sotto impresa a lavorare, no? Ma credo che comunque ti facciano fare, sai, quei lavori di pulizia delle strade, queste piccole pulizie dei giardini, cosettine così leggere, capito? Così avevo sentito, poi non so se hanno cambiato qualcosa, boh. Lascia perdere qua. Qua in paese, ok, no, è negativo, no, prima di questi lavori se ne davano, però adesso si sono rimbecilliti tutti e non le stanno più dando, infatti qua c'è tanto lavoro da fare che sotterra pure il comune, se vuole che c'è da fare qua, in questo paese qua dove sono io, ok. Però negativo, è negativo, nulla, intanto chiedo a vedere, ma ok, sono nel 6,5 lì della cooperativa, lì lavora in comune, come lavoro, ne danno questi qua, no, e lui dice ma quel lavoro, non ce ne dice lavoro, non ne danno, e ti puoi immaginare se questi stanno pensando a fare lavorare a chi ha bisogno, per carità, lasciamo perdere, ma ok, hai capito com'è la situazione, va bene, riprendo, se cambia. Era così, una cosa che ho sentito sulla televisione che dice che chi prende il reddito di cittadinanza al comune, comunque per il comune dovevano lavorare, insomma 3-4 ore, una cosa del genere, questi piccoli lavoretti, poi quello che ho sentito ti sto dicendo, capito, non è che ti mettono a mettere blocchi tra la mattina e la sera, non è quello, poi ti ripeto, io già preferirei lavorare, a parte di stare rincoglioni tutto il giorno a casa e aspettare che non so pure neanche quanto dia, no? È la verità. Ma cosa, quando prendevo questo tipo di reddito, com'è, cosa, 250 euro al mese, davano, mica davano la stessa cosa, ti facevano lavorare a pieno, ok. Mezza giornata e via, capito? 250 euro al mese d'acqua. Ok, certo che uno che lavora in impresa è molto meglio perché prende un bello stipendio, è ben pagato, quindi è più tranquillo, assicurato tutto, qua questi Marco Cipurato, sì, magari una piccola assicurazione così, in modo che se, se ti fai male sono contenti loro, capito? Ok, per quello lì, ma se no negativo, nulla, niente, sono 0 e sotto 0. Tutti uguali, tutti uguali. Già lo so, purtroppo. Ma comunque ci sta muovendo un po' di lavoro, va. Adesso inizia a sbloccarsi un po' di qualcosa. Già pure ora, già pure ora, era ora sì, di muoversi qualcosa. K, cioè, adesso c'è per carità questa stupidaggine del metodo, questo COVID che sta, per carità io li avrei tutti ammazzati questi dottori, non riescono a liberare questo cavolo di virus che c'è in giro, ok? Allora, un anno circa non so questa situazione, già un anno circa, ancora non sono riusciti a liberare questo stupido virus del cavolo, voleranno spazio, tanto questo qua è da qualche laboratorio che è scappato questo virus, non riescono diciamo a eliminarlo, ok, tu cosa vuoi ti dica, non lo so, ti danno proprio una frutta incredibile questi argini che erano quindi senza diciamo di una pensierina per questo, però magari ci sono anche ragazzini che ascoltano, non sa mai. Ok, hai capito com'è la situazione, vabbè, a te di nuovo il cambio, facciamo il capo passaggio e chiudo, vai, a te di nuovo. Vabbè, non è che sia proprio così come dici tu, perché tanta gente sta morendo per questo Covid, quindi non è che sia una cosa stupida. E vabbè, pure anche i medici non è che poveracci, anche loro sono in mezzo a queste cose, è anche un pericolo per loro stare lì, capito? Ok, vai, riprendi allora, Francesco. Appunto per quello, perché stanno, ne muoiono parecchi, specialmente anziani, e anche giovani ne muoiono parecchi. Ok, va bene, perfetto, ti saluto allora, grazie delle due chiacchiere, grazie dei controlli, ti saluto, buon proseguimento di serata e buon fine domenica, ok, e buon trabacco quando lo farai. Ma per me è QRT e ci sentiamo alle prossime, ok, ciao, per me è QRT. Ciao Francesco, ci sentiamo, buona continuazione domenica, ciao. Buon Molino, ci sei. Sono rientrato. Capa Brioscia. Doveri familiari. Stasera sono andato alla Bricola a prendere un paio di sacchetti di pellet. Ce ne sono a buon prezzo adesso. Io non ho ancora fatto più legna, infatti devo, ho già ordinato un po' di legna da un amico, quella di Bosco, però devo, sinceramente parlando, lo devo diventare con pedane, mascella, questa roba qua, perché effettivamente, come tu sai, la stufa a legna scalda quando c'è fiamma, non quando c'è braccia. Però ti dico un'altra cosa, Tino, allora, tutti i giorni lì di fronte alla metro, lì al mercato della frutta, mettono le pedane fuori per chi se ne vuole prendere. Sì, ho visto. Però sono quelle pedane, tu mi dirai, a cavallo donato, pure a bere in bocca, però sono le pedane, alcune, la maggior parte sono fini, quindi io stavo cercando gli altri, non quelle locali, ma le similari. Allora quando vai regna, insomma, con locali tagli, quelle fini sono, vengono a tagliarle e poi rendono poco, capito? Lo so, però ti, comunque già sono anche le schiaffe, che c'è un amico che va a prendersele, ce n'è anche di quelle grosse che dici tu. Però ti si giochivi, su vale, platizzare ogni tanto un pezzo di legna grossa e via dicendo. Ma io ce l'ho la tua legna, ce l'ho dall'anno scorso ma non l'ho mai accesa, anche fuori, e me la sto anche vendendo. La legna va di via, non detto qua, sono venuta di là. Tu mi dirai, il calore è diverso, tutto quello che vuoi, però quando apri a aggiungere la legna e un po' di fumo lo è sempre. Ti ripeto, il calore è completamente diverso perché come la stufa a legna non ce n'è, però è sempre un rompimento di scatole, la legna fuori, porta a vento, ti sporca, wow, casino. Sì, sì, hai ragione, vabbè, io adesso ero un po' che, come si dice, non ho, forse un anno che non stavo imbiancando, nel salone mi sono accorto la differenza, un po' di fumo giustamente esce, però io non lo sento, sai perché? Perché la volta di cucina dove la stufa non è dritta, è in pendenza, no? Quindi cosa succede? Che il fumo si sbatte nella parte alta, va a finire nella parte alta, cioè si sbatte nella parte bassa e va a salire nella parte alta, quindi non lo sento, poi quando va dentro nella camera vedo i risultati. Quindi molte volte non sembra che sia uscito, invece già è uscito. No, vabbè, io me ne accorgo perché, allora, mio padre c'ha quella stufa a legna, sai, quella tutta in ghisa, che c'ha la farina dorata davanti, no? Che c'ha i due farini sopra per appoggiare la pentola. Guarda, c'è un caldo, ti dico la verità, c'è un caldo da morire, stai in mutande dentro casa di babbo. Però appena entri, vedi un fiago, si brucia, io me ne accorgo subito dall'odore della legna, capito? Sì, ho capito, ma quello dipende dalla stufa, da quella che praticamente dove metti la pentola, la cucina ecologica la chiamo, effettivamente agli anelli dove tu butti la legna là sopra, quindi un po' di fumo lì esce, mentre invece la mia è un modello più recente, è una stufa tutta quel bel quello fatta anche da poco, l'ho aperta ultimamente, l'ho proprio sigillata bene bene bene, quindi il fumo può solo esclusivamente uscire quando io apro la parte frontale, che effettivamente adesso l'aprirò solo quando c'è pochissima legna oppure braccia, capito? Mentre invece al contrario degli altri esce anche quando la sta bruciando. No, aspetta, mi correggo, sopra quella di mio padre non c'ha gli anelli che poi tu gli aggiungi la legna da lì, attenzione, ha solo il disegno dove tu appoggi il fondo della pentola, ma sopra è tutta chiusa. Allora, quello di mio padre c'ha lo sportello laterale e quello centrale, capito? E quelle vecchie chimiche che sono tutte in ghisa, pesanti un po', sopra c'ha solo il disegno dove tu appoggi il fondo della pentola, diciamo così, però è tutta chiusa. Ah, se ha solo il disegno è un'altra cosa, sì, perché io ho conosciuto quella che aveva mio compare, aveva gli anelli, no, che cioè dal più piccolo al più grande, che praticamente mettevi la pentola, praticamente quasi a contatto con la fiamma, ecco. No, questo c'ha solo disegno e basta. Poi non ha di, non c'ha anelli, no. C'ha solo il disegno dove appoggi la pentola, basta. Adesso la cerco, se trovo una foto che ce l'ho qua te la mando. Meglia, va bene. Guarda il telefono, mio padre ce l'ha così per farti capire. Sì, mi arriva, sì, la conosco, ce l'avevo anche io. Anzi, addirittura me l'avevano regalata a me. E l'ho rifatta precisa, identica, l'ho data a mamma. Poi sarà cambiata, ci ha preso quella pelle. Scaldano di brutto questo, Il babbo ce l'aveva forse un 35 anni. Sì, sì, sì, io l'ho rifatta a nuovo con un amico, un po' in officina, un po' quando l'ho portata qua, poi l'ho assemblata nuovamente, l'ho tutta bella sigillata. Sì, che per forza scalda, tutta ghisa. Quella è micidiale, sì. Solo che vabbè, fanno più la ghisa, sai, io addirittura in questa qua ho cambiato le pareti interne perché anche la mia era in ghisa, però usando i tacchi delle pedane raggiungono una temperatura non indifferente, quindi con l'andare del tempo me le hanno sciolte, praticamente la ghisa è uscita una pancia peggio della mia, alla fine si è anche crepata, allora ho dovuto smontare tutto quanto e mi hanno regalato delle lastre 50x50 per un centimetro e mezzo di acciaio. Quindi cosa ho fatto? Le ho prese, le ho tagliate a misura, gli ho fatto tutta l'anima interna e il tappo. E l'ho ripristinata, l'ho rifatta a nuovo praticamente. Ma poi vengono anche il silicone adatto e tutte queste cosettine qua, capito? Guarda, adesso io ti mando quella che io sto dando. Ma la stai vendendo? Sì, sì, me la sto togliendo fuori dalle palle. Non sono più interessato a questa stufa. a premettere che l'ho fatta lavorare 5 mesi. Nulla, praticamente nulla. Poi qua c'ha un toccapallone, c'ha tutta la maiolica laterale, beh, quella rossa, e vabbè, qua davanti. Gli ho dato una levigatina, l'ho tutta riportata a nuovo, con la tinta ad alta temperatura, l'ho rifatta un po' bene, dai, diciamo. Sì, sì, anch'io ce l'ho. Non ce la faccio mai, non penso che sia peggio la mia, è la mia, la maiolica rossa spesso, una grande piastra sopra. Poi, no, scalda molto questa è una buona stufa, la verità si dica. È così. Vediamo, adesso ci ha fatto... Ah, quello sta facendo Antonio, della ruspa. Ho provato di nuovo a lui. Non ti è arrivata la foto, non c'è più linea? No, la mia ce l'ho sotto, magari è basso il segnale. Adesso è arrivato, vero? Ah, sì, ho capito. È bella questa qua adesso. Ehi, è grande, lì. Sì, non è che sia piccola piccola, sarà alta almeno, penso sia 120-130 come altezza. Ehi, ha voglia, ha voglia. Ma io l'ho preso a vita adesso, io sono rotto con legna, però c'è un po' di lavoro, nel senso che dico. Signora, io qua so, allora basta. Ti ripeto, stavo dicendo che io sono amante della stufa a legna, che c'è lavoro da fare, è molto più sbrigativa, invece, anche se è differente il calore, più sbrigativa il pellet. Quindi ho una mezza idea quando sarà, non adesso, ma quando sarà di cambiarla in pellet. Sì, ti non la caguba, hai capito, cioè vai lì, ti prendi 3-4 sacchi di pellet, apri, butti dentro, non sporchi, non devi avere questo assillo di andare a cercarti la legna, ti fai la stagione, ti prendi una pedana e mezzo e ti fa tutta la stagione, magari ti avanza anche, capito? Io per esempio adesso la stufa la accendo qualche ora la sera ancora, durante tutto il giorno con queste belle giornate non le sto accendendo, la sto accendendo un po' la sera così giusto per stemperare l'ambiente, ma l'ho accesa per esempio alle 5 stasera, adesso verso le 10 la spengo, rimane un po' di calore e non mi consuma neanche un sacco, per esempio un sacco mi dura 2 giorni, 3 giorni, poi vabbè se c'è freddo freddo la accendo da presto, però è tutta un'altra cosa, capito? Anche per tua moglie, magari che va lì, prende un sacchetto, se lo aggiunge, la porta uscire fuori, prende la legna, sporca dentro casa, è un'altra storia. Sì, sì, quello è vero, però adesso mi devo parlare un po' con Luca perché si stava aggiornando che questo è a legna, tramite un contenitore, adesso lo faremo, adesso vedrò un po', tramite un contenitore particolare, può funzionare anche ad pellet, però credo che la cosa del pellet, la funzionalità più del pellet sia anche l'aria forzata, ecco. Beh, dentro tanto ha una resistenza lì, con soffio, capito, scaldo il pellet e quello lì alla fine. Sì, però voglio dire, bruciare solo il pellet non credo che faccia questo grande calore, perché sì, la puoi utilizzare, fa la fiammella, ma non è niente di particolare, usando la mia sto parlando, quella legna, trasformandola a pellet, hai capito? Ah, tu la vuoi trasformare da legno a pellet, va che te lo vado a fare. No, se ne vuoi la candela, sì, si può fare, perché puoi utilizzare sia una che l'altra. Tramite il contenitore puoi utilizzare, puoi bruciare il pellet, però credo che, come stai dicendo tu, tramite un piccolo ventilatore, nel caso, apposito all'interno, vado a soffiare sopra il pellet per farlo forzato. E boh, il vero proprio cosa non lo so il funzionamento, però ho visto che c'è una pompa di fume, c'è una coclea che butta fuori l'aria, cioè non lo so proprio, il vero, la mia c'ha 2 motori, capito? Boh, non lo so poi come si trasforma la legna a pellet, capito? Non lo so. Ma Luca lo sta guardando però. non lo so se si, no, non credo non si possa fare, perché ho visto dei video anche, però c'è differenza tra una e l'altra, cioè dall'altra una che è studiata appositamente per fare quel tipo di lavori, ecco. Allora la legna, la legna invece ha bisogno di una spinta in più. Boh, non so come funziona questa la trasformazione, non lo so com'è. Sì, vabbè, sin che c'è legna c'è speranza. Ah, poi già ci sono degli amici che lavorano su quelle cose lì, quindi batto una telefonata, me ne porterò un furgone, due contro un voglio. Ah, vero, ma visto fare a pelle? No, di legna normale. Ah, pensavo di stufa a pelle, perché c'è un furgone, fatti la regalata. Magari, non c'è più mio cugino che ci lavora, Ma io l'ho pulita, la verità, l'ho fatta pulire 2 settimane fa, però 2 anni che non facevo fare la pulizia, pulita, ma non era sporchissima. Sì, io l'ho pulita a mio padre, ma addirittura l'ho smontata per, sai, dietro al contenitore delle cinghie, della carattinaria, non riuscivo a smontarlo perché toccava in terra. Allora alla fine ci ho messo mano, gliel'ho accorciato di 2 centimetri, in maniera tale che quando andrò a pulirla c'è il gioco per poterlo fare, ecco. Poi positivo. Tino, mi hanno suonato il campanello, scendo a vedere chi era. Se in caso poi ci sentiamo più tardi o se no ti saluto, ok? Non c'è problema, vai tranquillo, figurati. Sono qua da Rex. Ciao Massimiliano, ciao, presto. C'è qualcuno su 10? Hola? Chi c'è su 10? Sempre nessuno, Robè, ciao! Vabbè Marco, come va? Sì, c'ho un abbassamento di voce, Robè, quindi sono entrato a salutare. Ciao, ci sentiamo in migliori occasioni. C'era gente prima, però hanno chiuso da un bel po', quando sarà? Più di mezz'ora, forse 3/4. Ok, dai, rimettiti presto allora. Cioè, niente di grave, ma sempre mi viene questa voce afona. È così, dai. Vabbè, ciao Robè, buona serata, buon tutto, ciao ciao. E alle prossime, vediamo un po' se c'è qualcuno su 10, se vuole entrare, se no tengo con Rex acceso qua. Per carità, però dire che siamo anche a pranzo in campagna ad amici, mi gioco disintegrato, ho mangiato come un porco, sono pesante, infatti stanotte non c'erano neanche, sto preparando allora, portate al forno, altra roba che è avanzata, non mangio mai, mangio, guardo un po' di sport dopo e sicuramente mi addormento anche presto. Claro, mi stavi dicendo a me che ero giù che stavo cambiando l'acqua agli olive. No, sentivo delle strade, c'è Roberto Quadrato sul 5 con Cogio, ma chi chiama? Con quell'altro mio collega Radio Mattore, non me la metto. Ah, kappa, sì, non lo so, vabbè, a me non l'ho sentito, la verità, perché i colpi ne prendo pochi. Su 5 c'è Roberto, se vuoi andare lì, alto, io chiudo perché mi sta chiamando mia moglie, se no sto parlando lettore, la mia lettore, perché c'è roba da girare al forno, capito, c'è un pezzo di carne. Dai, c'è Roberto Quadrato con Bracco sul canale 5, se no vai. Ci sentiamo. Non la dice senti in dirlo, Bracco. Sì, già, ehi, che te le bombe forte, 9:40, no? Addirittura. Qua non è sole. Allora sì, Sì, è attaccato in mezzo tra me e Roberto, per quello le bombe forte. Dai, ti lascio, Anto, se coincide ci sentiamo dopo, ok? Ciao, un abbraccio, a domani. Ok, ciao, grazie, ciao. O quando è, ciao. Ciao, Anto.